ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Quinta puntata. Filantropia in canonica. Il reverendo Septimus Crisparkle, Septimus perché prima di lui sei fratellini Crisparkle si erano spinti alla nascita uno dopo l'altro, come sei povere candeline appena accese, dopo aver spaccato con la sua amabile testa di primo mattino il sottile strato di ghiaccio della chiusa di Cloisterham, rinvigorendo il suo fisico, si dedicava ora alla circolazione del sangue di fronte a uno specchio, tirando di box con gran perizia e bravura. Nello specchio, fresco e sano, era il ritratto del reverendo, che fintava e scartava di lato con maestria e sferrava precisi diretti, mentre dai suoi lineamenti sereni si irradiava innocenza e dai suoi guantoni bontà di cuore. Mancava un po' di tempo alla colazione, visto che la signora Crisparkle, madre, non moglie del canonico, era appena scesa e attendeva che portassero la teiera. Cosa c'è di più grazioso di una vecchia signora, a parte una giovane signora, se il suo sguardo è luminoso, la sua figura linda e soda, il suo viso allegro e tranquillo e il vestito è come quello di una pastorella di porcellana, così delicato nei colori, così adatto alla sua persona, così armoniosamente modellato su di lei? Non c'è nulla di più grazioso, pensava spesso il canonico, sedendosi a tavola di fronte a sua madre, vedova da lungo tempo. Ciò che pensava lei, in quelle occasioni, si può condensare nelle due parole che più frequentemente comparivano nei suoi discorsi. Mio Sept. Erano una bella coppia, seduti insieme a far colazione nella canonica di Cloisterham. Muri di mattoni rossi, armoniosamente sbiaditi dal tempo, edera radicata tenacemente, finestre protette da grate, stanze rivestite di pannelli, grosse travi di quercia in piccoli spazi, incorniciavano la graziosa vecchia signora Crisparkle e il reverendo Septimus, mentre sedevano a colazione. «E la lettera?» chiese il canonico, dando prova di un sano e vigoroso appetito. «Cosa dice, mammina?» La graziosa vecchia signora l'aveva appena posata sulla tovaglia, dopo averla letta. La porse al figlio. «Naturalmente del signor Honey Thunder», disse la vecchia signora, mettendosi a braccia concerte. «Naturalmente», assentì il figlio, poi balbettando lesse. Rifugio del filantropo, ufficio centrale, Londra, mercoledì. Gentile signora, scrivo seduto su... Su che? Su che sta seduto? Sulla sedia, disse la vecchia signora. Septimus si tolse gli occhiali per poterla vedere in faccia mentre esclamava: Perché? Dov'è che dovrebbe star seduto? Ridammela, mio caro. Lieto di levarsi gli occhiali, che lo facevano regolarmente lacrimare, il figlio obbedì, mormorando che, con cose scritte a mano, la vista gli peggiorava di giorno in giorno. «Scrivo», continuò sua madre leggendo con grande chiarezza e precisione, «seduto sulla sedia, su cui starò probabilmente confinato per qualche ora». Septimus guardò la fila di sedie lungo il muro con un'espressione tra l'irritato e il supplichevole. «Al nostro edifugio suddetto», lesse la vecchia signora accentuando lievemente l'enfasi, «è in corso una riunione del comitato direttivo riunito dei filantropi centrali e distrettuali e per consenso unanime occupo la sedia presidenziale». Per non perdere la posta di oggi, approfitto della lettura di una lunga relazione, un atto di denuncia di un pubblico furfante. È incredibile, si intromise il gentile canonico infastidito, poggiando forchetta e coltello per strofinarsi l'orecchio. Questi filantropi non fanno altro che denunciare qualcuno. E altrettanto incredibile è che di furfanti ne trovino dappertutto. Di denuncia di pubblico furfante, riprese la vecchia signora, per levarmi dalla mente il nostro piccolo affare. Ho parlato con i miei due pupilli, Neville e Elena Landless, a proposito della loro istruzione carente, ed essi accettano il piano proposto. E state pur certa che glielo facevo accettare, volenti o nolenti. E poi è anche incredibile, osservò il canonico con lo stesso tono di prima, che questi filantropi si dilettino a prendere il prossimo per la collottola e a sbatterlo, si potrebbe dire, sui sentieri della pace. Scusa se ti ho interrotto. Pertanto, cara signora, vi prego di informare vostro figlio, il reverendo Septimus Crisparkle, dell'arrivo del suo allievo Neville lunedì prossimo. Elena lo accompagnerà a Cloisterham e prenderà alloggio alla casa delle monache. Vi prego di avvertire che si preparino ad accoglierla e a predisporre il suo corso di studi. È inteso che in entrambi i casi i termini sono esattamente quelli di cui mi avete scritto, rispondendo alla lettera che vi scrissi su questo argomento, dopo aver avuto l'onore di conoscervi qui in città, in casa di vostra sorella. Con i miei ossequi al reverendo Septimus, rimango, cara signora, il vostro affezionato fratello in filantropia, Luke Honey Thunder. Ma sono sicuro che sarai d'accordo con me, disse Crisparkle dopo aver riflettuto sulla questione, che la prima cosa da fare è di mettere questi giovani il più possibile a loro agio. Non è un'idea disinteressata, dato che noi non possiamo sentirci a nostro agio con loro, a meno che loro non ci si sentano con noi. Ora, il nipote di Jasper si trova attualmente qui. Il simile si attacca al simile, il giovane al giovane. È un ragazzo cordiale e gli faremo incontrare fratello e sorella a cena. E fa tre. Non possiamo invitare lui senza invitare Jasper. E fa quattro. Aggiungi la signorina Twinkleton e quella fatina di futura sposa e fa sei. Aggiungi noi due e fa otto. Ti metterebbero in crisi otto invitati a una cena tra amici, ma nove sì, Sept, rispose la vecchia signora, visibilmente nervosa. Mammina, specifico, non più di otto. Il numero giusto per il tavolo e per le dimensioni della stanza. Così la decisione fu presa e quando Crisparkle si recò con sua madre dalla signorina Twinkleton per organizzare l'accoglienza di Elena Landless, i due inviti relativi a quel luogo furono fatti e accettati. Furono poi inviate istruzioni al filantropo per la partenza e l'arrivo del signor Neville e della signorina Elena, perché fossero in tempo per la cena e in canonica l'aria si profumò degli ingredienti del brodo. In quei giorni non c'era la ferrovia a Cloisterham e Sapsi diceva che non ci sarebbe mai stata. Diceva anche di più, che non avrebbe mai dovuto esserci. In realtà un remoto tratto della linea principale diretta altrove esisteva e avrebbe rovinato la borsa se falliva, Stato e Chiesa se prosperava e ovviamente la Costituzione nell'uno e nell'altro caso. Ma persino quello spezzone aveva talmente sconvolto il traffico di Cloisterham che detto traffico, abbandonata la via maestra, si insinuava inverosimilmente in città dalla campagna lungo un viottolo dalla parte delle stalle che per anni aveva recato all'angolo la scritta «Attenti al cane». Questa ignominiosa via d'accesso si recò Crisparkle ad aspettare il compatto, tozzo omnibus con uno spropositato ammasso di bagagli sul tetto come un piccolo elefante ingombro di un immenso baldacchino che a quei tempi serviva da collegamento giornaliero tra Cloisterham e il resto del mondo. Mentre il veicolo avanzava arrancando, Crisparkle, oltre a questo, non riuscì a vedere granché. dato che un grosso passeggero sedeva a cassetta con i gomiti sporgenti e le mani sulle ginocchia, schiacciando il vetturino in uno spazio alquanto angusto e scomodo e guardandosi intorno torvo con una faccia dai tratti molto marcati. «Questa è Cloisterham?» domandò il passeggero con voce roboante. «Sì, è questa», rispose il vetturino dopo aver gettato le redini allo stalliere e massaggiandosi come se avesse dolore in tutto il corpo. «E non sono mai stato più felice di vederla». «E allora dite al padrone di allargare il sedile», replicò il passeggero. «Il vostro padrone ha l'obbligo morale, che dovrebbe anche essere legale, pena rovinose sanzioni, di provvedere alla comodità del suo prossimo». Il vetturino si dedicò, col palmo delle mani, a un superficiale esame del suo scheletro, le cui condizioni parevano renderlo ansioso. «Vi sono stato seduto sopra?» chiese il passeggero. «Proprio così», disse il vetturino, come se non avesse affatto gredito la cosa. «Eccovi il mio biglietto, amico mio». «Non ve ne voglio privare», replicò il vetturino, gettandovi un'occhiata per niente favorevole senza prenderlo. «A che mi serve?» «A diventare membro di questa società», disse il passeggero. «E che ci guadagno?» chiese il vetturino. «Fraternità», rispose il passeggero in tono feroce. «Grazie assai», disse il vetturino con grande deliberazione, scendendo. «A mia madre gli bastavo io e mi basto anche a me. Di fratelli non ne voglio». «Non potete farne a meno», ribatté il passeggero, scendendo anche lui. «Che lo vogliate o no, io sono vostro fratello». «Ma insomma», protestò il vetturino, sempre più irritato, «tempo al tempo, i fratelli ce li avrò quando i vermi». A questo punto si intromise Crisparkle, rimproverandolo in tono pacato e amichevole. Joe, un po' di controllo, Joe, amico mio». E rivolgendosi poi al passeggero, «Signor Honey Thunder?» «Questo è il mio nome, signore». «Il mio è Crisparkle». «Lieto di vedervi, signore». «Neville e Elena sono dentro». «Parzialmente provato dalle mie recenti fatiche pubbliche, ho pensato di venire a respirare un po' d'aria fresca. Sicché siete il reverendo Septimus». «Mi aspettavo di trovarvi più vecchio, signore». «Spero che prima o poi vi capiti», rispose di buon umore Crisparkle. «Eh?» domandò Honey Thunder. «Solo una piccola battuta che non vale la pena di ripetere». «Battuta? Beh, quelle non le capisco mai», replicò accigliato Honey Thunder. «Con me sono sprecate, signore». «Ma dove sono? Elena, Neville, venite qua. Il signor Crisparkle è venuto a conoscervi». Un ragazzo snello di avvenenza insolita e una ragazza snella di avvenenza insolita, molto somiglianti, molto scuri entrambi, di un bel colore intenso. Lei del tipo quasi zingaresco, un che di selvatico in entrambi, una certa aria di cacciatore e cacciatrice e tuttavia nell'insieme una certa aria di essere prede piuttosto che inseguitori. Sottili, flessuosi, mobili nello sguardo e nel corpo, potendoli leggere sarebbero stati questi, letteralmente, i sommari appunti presi da Crisparkle nei primi 5 minuti. Invitò a cena Honey Thunder col cuore pesante, prevedendo l'agitazione della cara pastorella, e diede il braccio a Elena Landless. Lei e il fratello, mentre camminavano tutti insieme attraverso le antiche strade, traevano piacere da quanto Crisparkle indicava loro della cattedrale e del monastero diroccato, e si meravigliavano, così proseguivano i suoi appunti, come fossero dei leggiadri prigionieri barbari portati lì da qualche selvaggia colonia tropicale. Honey Thunder camminava in mezzo alla strada, facendosi largo tra gli indigeni a spallate e sviluppando, a voce alta, un suo strano piano per catturare tutti i disoccupati del Regno Unito, cacciandoli uno dopo l'altro in galera e costringendoli, pena l'immediato sterminio, a diventare filantropi. Giunsero poi alla canonica. La signora Crisparkle dovette far ricorso alla sua personale scorta di senso filantropico nel contemplare quella grossa, strepitante escrescenza sul gruppetto di persone. Honey Thunder, sempre simile a una specie di pustola sulla faccia della società, in canonica si gonfiò fino a diventare una cisti infiammata. Pur non essendo letteralmente vero, come gli rimproveravano alcuni faceti pubblici miscredenti, che apostrofasse il prossimo urlando «Stramaledetti nel corpo e nell'anima, venite qui che vi benedico!», pure la sua filantropia era di quel genere bellicoso che rendeva difficile distinguerla dall'animosità. Bisognava abolire la forza militare, ma prima tutti gli ufficiali colpevoli di aver compiuto il loro dovere andavano portati davanti alla corte marziale e fucilati. Bisognava abolire la guerra, ma i proseliti andavano fatti muovendo loro guerra e accusandoli di amare la guerra come la luce dei loro occhi. Bisognava abolire la pena di morte, ma prima andavano spazzati via dalla faccia della terra legislatori, giuristi e giudici di opinione contraria. Bisognava promuovere la concordia universale, eliminando la gente che non voleva o in coscienza non poteva essere d'accordo. Bisognava amare il prossimo come se stessi, ma solo dopo un periodo indefinito passato a diffamarlo, come lo si odiasse, e a coprirlo dei peggiori insulti. Soprattutto, nessuna azione doveva essere di tipo privato o intrapresa per tornaconto personale. Bisognava andare negli uffici del rifugio e iscriversi come membri e filantropi militanti. Poi bisognava pagare la sottoscrizione, prendere tessera, nastro e medaglia e vivere da allora in poi su un podio dicendo ciò che diceva il signor Honey Thunder e ciò che diceva il tesoriere, il sottotesoriere, il comitato, il sottocomitato, il segretario e il sottosegretario. E ciò che veniva detto rispondeva solitamente alla risoluzione presa all'unanimità, firmata e sigillata, secondo cui questo organo assembleare di filantropi militanti giudica con indignazione carica di disprezzo e non esente da ripugnanza e disgustata avversione, in breve, la bassezza di quanti non ne fanno parte e si impegna a esternare quante più infamie possibili sul loro conto, senza tener minimamente in considerazione i fatti. La cena fu un malinconico fiasco. Il filantropo sconvolse la simmetria. Si sedette in modo da ostacolare il servizio, bloccò il passaggio e portò Taupe, che assisteva la domestica, sull'orlo dell'insania, costretto com'era a passare piatti e pietanze sopra le teste. Nessuno riuscì a parlare con nessun altro, poiché lui sproloquiò, rivolto a tutti contemporaneamente come se la compagnia non avesse un'esistenza individuale, ma fosse un'assemblea. Sequestrò il reverendo Septimus come interlocutore ufficiale o come una specie di gancio umano su cui appendere il suo cappello retorico e prese l'esasperante abitudine di fargli impersonare la parte di oppositore debole e maligno. Di modo che chiedeva: «E vorrete ora, signore, rendervi talmente ridicolo da dirmi?» e via di questo passo, senza che il povero innocente avesse aperto bocca o intendesse farlo. Oppure diceva: «E adesso vedete, signore, in che posizione siete andato a cacciarvi? Non vi lascerò scampo». Al che lo sventurato canonico assumeva un'aria tra l'indignato e il perplesso, mentre la sua degna madre sedeva cercando di mantenere il controllo con le lacrime agli occhi e il resto della compagnia scivolava in una sorta di stato gelatinoso, privo di sapore o densità e dotato di pochissima resistenza. Ma il fiotto di filantropia che sgorgò quando la partenza di Honey Thunder si fece prossima dovette essere altamente gratificante per i sentimenti di quell'uomo distinto. Gli fu servito il caffè, grazie al particolare impegno di Taupe, una buona ora prima che gli andasse di berlo. Crisparkle sedette più o meno per lo stesso periodo con l'orologio in mano e il timore che si fermasse oltre il dovuto. I quattro giovani furono unanimi nel ritenere che l'orologio della cattedrale avesse suonato i tre quarti, quando in effetti ne aveva suonato soltanto uno. La signorina Twinkleton valutò la distanza dell'omnibus in 25 minuti di cammino, quando in realtà era di 5. L'affettuosa gentilezza dei convenuti lo spinse dentro il cappotto e fuori al chiaro di luna come fosse un traditore in fuga con il quale erano solidali e una schiera a cavallo lo incalzasse alla porta sul retro. Crisparkle e il suo nuovo discepolo, che lo accompagnarono all'omnibus, furono così preoccupati che prendesse freddo da chiuderlo dentro istantaneamente, lasciandolo lì ad aspettare con una buona mezz'ora di anticipo. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.